Ciao già, buonasera. Mi sa che in questi tempi poca gente c'è. Cosa ci vuoi fare? Io acceso adesso per il... non ne avevo voglia. Ieri c'ero da presto, c'era Giulio, c'ero io, è entrata altra gente, poi è entrato il portantista come al solito e siamo dovuti scappare da qui. No, già cambiamo un'altra frequenza che lui non la trova manco se si ammazza. Ma una frequenza che si può usare? No, la trova, ci vuole un apparecchio speciale e poi vuole attaccata l'antenna, la massa al tubo dell'acqua, quindi è una cosa, una procedura un po' così. Già te lo dirò un altro momento. Comunque è una frequenza che bisogna avere l'apparecchio adatto, se no... A parte che non ci puoi entrare se non hai l'apparecchio che ci vuole, mi capisco. Sì, io. Ma in 27 sei? No. Ah, ecco, capito. Ma perché non si deve cercare di trovare questi rimedi quando c'è la 27, cazzo, non capisco perché debbano disturbare. E purtroppo disturbano, cosa vuoi che dica? Ieri stavamo parlando e purtroppo è successo quello, e ti ho detto. E io non ne sto manco più attaccato in macchina quando esco perché non c'è mai nessuno, purtroppo invece li ha fatti scappare tutti. Allora poi la gente quando vede così non c'entra più. Vabbè, normale, no? È normale. Ma che gusti! Infatti, sono proprio gusti, qua. Lasciamo perdere, va. Infatti, se c'è gente entro, se no, vuol dire, infatti me lo stavo manco accendendo per ascoltare, perché non te ne viene voglia già, è quello il discorso. Quando è così rompere scatole, perché magari stai affrontando un discorso e ti interrompe a metà e cose, non puoi fare un discorso di continuo, normale. Sì, infatti, è per quello. Quando ne ho voglia accendo, quando non ne ho voglia non accendo neanche, figurati, manca ascoltare, mica che me ne è passata la voglia, sono disgustato. Sì, ma quando penso che ho speso un sacco di soldi per la frequenza e io sono diversi apparecchi e cose, ma non ne vale la pena. Ho preso anche il Ruis, che è proprio immacolato, non c'è un graffio, perfetto. Ruis, ho preso un altro bello della Cobra di X, di 2000 di X, non so se lo conosci. Sì, già lo conosco, ma io ne ho tolto tutto da qua, mi c'ho solo questo e buh. Tanto non sto né ascoltando né niente, finché arrivo che ne tolgo pure questo non c'entro più, perché sono disgustato, quando di bassa ragana hanno venuto di qua. Per entrare ed essere disturbato così come ieri non ne vale la pena. E infatti dico la stasera non entra di chiudo. E lì, il fatto è che poi te lo vendi, poi te lo ricompri, perché quando c'è la passione, quella è la ragione, capito? Quando hai la passione poi ti fa compagnia, magari quando non sai cosa fare, senti. Io già ne ho cose da fare, perché adesso sto addestrando i pappagalli parlanti, e quindi un po' da fare ce l'ho, però ogni tanto mi fa piacere, capito? Mi fa piacere sì, ma io non vendo più nulla, qua se io non lo dovessi togliere lo rimetto nella scatola e rimane lì, si può pure brasigà, però rimane in chivi, non ne do più a nessuno di nulla. Ma infatti, tanto non ti chiedeva a mangiare, non si paga manco più la tassa, quindi ma con la tassa devi pagare. Sì, infatti, lo metto nella scatola, via, e quando ne ho voglia lo uso, quando non ne ho voglia non ne uso, semplice, come ho fatto stasera per esempio, ho acceso poco fa proprio perché non ne avevo voglia. Lo so, purtroppo. per così, io da tanto che non entravo perché c'ho altri impegni e cose, quindi non stavo entrando, dai. Poi mi ho preso la passione del canto, stiamo sempre cantando a casa con la mia compagna e ci mettiamo a cantare al karaoke, e vabbè, e ti distrai così, capito, ci facciamo compagnia così. Sì, infatti, tu hai la passione per quello lì, per cantare, diciamo così. Ma io mi si è rotto il telefono, morto completamente, l'ho dato a Luca, non c'è niente da fare. La 20 della Samsung, l'abbiamo pagato una vacca di dinà e da voi va nulla. Scaduti 2 anni, il telefono non accende più. Oh, yeah. Vabbè, purtroppo è così. Io ho cosa adesso, il Redmi 9 Pro, c'ho quello lì, e poi ne ho un altro, il Samsung Lite 10, P10 Lite. Ho capito, io pure c'ho il Redmi 9, me l'ho comprato stamattina perché se no ero a piedi, c'avevo quel Samsung vecchio. Meno male che me lo sono tenuto, se no mi sono fatto fregare. Quanto ne pagate il 9 Pro? 129, perché mi ha fatto lo sconto, se no costava 170 euro. Mi ha fatto lo sconto perché sono passato a Wind, gli ho dato la scheda delle poste, perché quella Vodafone già me la sono tenuta e quindi ho 2 schede, una Wind e una Vodafone. E più avevo la scheda e gli ho messo anche la scheda di memoria che ce l'avevo. Adesso l'ho finito di caricare poco fa. Adesso è pronto all'uso. Tu pensa che io col telefono l'avevo pagato 295 euro. Sì, vabbè, adesso è uscito il 10, l'11 e per forza abbassano di prezzo. Costava 170 a me a comprarlo, non è costava di meno. E che mi ha fatto lo sconto per il coso, perché sono passato con la scheda delle poste che avevo, quella che mi avevano regalato, non ne stavo più manco caricando. E gli ho dato quella lì e sono passato a Wind con quella e mi ha fatto lo sconto. E quindi c'ho anche la scheda Wind. Ho pagato 149 in tutto, là, perché 20 euro la scheda e il telefono l'ho pagato 129. E già va bene, ho un telefono come telecamera, come macchina fotografica, il mio purtroppo è uscito difettoso, mi cade la linea mentre sto parlando, cade la linea, l'ho mandata a centro assistenza, non hanno fatto nulla, cade sempre, ho cambiato operatore, non c'è niente da fare, cade sempre la linea, adesso ve lo ricambio l'operatore perché questo invece non mi piace, c'ho l'Eca Mobile ma pago 5 euro e 90 al mese, ma sto pensando che ci fosse anche quello, adesso mi voglio mettere qualche cosa tipo team, cosa così, perché ho paura che non prenda la linea in questa zona, prima prendeva bene, non comprendo, ma cosa va, non piglia più. Basta provare, io ho Wind e Vodafone, basta provare se cade la linea, magari è l'operatore che hai tu che non... Qua per esempio con Iliad non pigliava, manco se ti ammazzavi, uscivi dal portone fondo scala, avanti. Perché non l'ha chiusa quella magari. Ma qua ha sempre preso bene, io c'avevo Vodafone, mi ho fatto un video di voci, di cose, mi hanno fatto fare un video di operazioni, mi hanno fatto spegnere, riaccendere, fare questo, quella. Niente da fare, niente da fare. Alla fine gli ho detto che cambiamo operatore. Sono andato e ho preso l'Eca Mobile. Questo l'Eca Mobile però non mi soddisfa molto. Voglio cambiarlo, voglio metterli, io li rimetto a Vodafone, o li rimetto TIM. Non lo so. Sono andato a aprire la porta e mi ha suonato mia moglie, deve essere senza chiavi. E quindi sono andato a aprirgli la porta, non ti ho potuto avvertire. Oh, yeah. Però questo sembra che funzioni bene, mi ha telefonato mia moglie, ho telefonato tranquillo con la Vodafone. La Windows si deve ancora attivare, figurati. E beh, Rosolitti. Oui, vabbè. Resuscitato, cicla. Resuscitato, io già ci sono sempre, ma... Cioè, se io accendo la radio, mi devo rilassare 5 minuti, mi rilasso. Se poi accendo la radio, come ho acceso ieri dopo tanto tempo, e ci sono portanti, e c'è gente che rompe le balle, già io spengo tutto, non mi devo mangiare più la radio, mai capito. Pare prima era un passatempo diverso, in condominio, ma poi io ho altre cose da fare, quindi... Se entro per rilassarmi 10 minuti e per salutarmi, e per salutarli mi va bene, se no tengo spento, devo lasciare la frutta. Ieri c'era portante, ero un mese che non entravo, sono entrato a salutare subito, a Giulio, ta, aio dai, cioè sono stroncate, dai. Lo so, anche a me dà fastidio perché interrompi i discorsi, lo stavo facendo a Natale, lo stavo facendo un discorso, te lo interrompo a metà, non puoi finire di parlare. Cosa ci vuole fare? Io un po' di tempo che non entravo anche ogni tanto a salutare lo stesso, però vedo che c'è poca frequenza di persone, quindi accendo, poi vedo che non c'è nessuno e spengo, magari entro dopo 5 minuti, capace che entravo tardi, sono entrato l'altra notte che c'era bombola eccetera eccetera, sono entrato. Però adesso io già lo sai, sono un po' impegnato, poi non so se l'hai saputo, ho preso due pappagalli parlanti e quindi li sto addestrando, e c'è anche con impegno lì adesso. Io sono fuori dal mondo, come faccio a saperlo? Tanti sono tempo che non ti vedo, non ti sento, né niente, quindi non so niente. Meglio così, almeno c'è il passatempo e io faccio da addestrare tutte le cose che ho qua. Ho fatto il prato, devo innaffiare tutti i santi giorni, ho già iniziato a piantare alberelli e cose, capito? Io non c'avevo niente, c'era solo il giardino nudo e crudo, quindi ho fatto il prato inglese, sto facendo un sacco di cose, quindi anch'io sono andato a farlo, però ripeto, se entro per salutare gli amici 10 minuti e così, giusto per non allontanarmi del tutto, cazzo poi c'è portante, io me ne vado, non è più tempo da perdere già, sono così sereno e tranquillo, non mi va di sentire trozzate, non me ne affrutti più nulla. Vai Natalino. Sì, Natalino non c'è più. Sì, già ci sono, che sto manovrando qua, che mi sto misurando la glicemia e devo anche mangiare, dai, vi ascolto. Ehi, Natalino, va bene, non so neanche se sto andando bene, già se sta funzionando bene questa radio, no, è da tanto che non sto usando più niente, ogni tanto accendo il Galaxy, lo metto in ricezione, per non accendere gli alimentatori, e ho fatto un passaggio con il Galaxy, subito, 5 minuti, dopo 5 minuti ho iniziato la portante, gli ho detto, beh, ciao a tutti, arrivederci e buon viaggio, ho spento completamente tutto e me ne sono andato in veranda, perché non fa più, se prima si sopportavano certe cose, adesso non va più bene, tutto qua, io non ho niente con nessuno, per carità, però me ne sono uscito dai casini e non ci voglio più rientrare, basta non mi cerchi, no, mi lasci una santa pace, una volta per sempre. Ma infatti, io sono tranquillo lo stesso adesso, non voglio più avere a che fare con certe cose, certi casini, non mi piace più. A parte non mi è mai piaciuto, ma adesso tanto meno, perché poi mi impegni, tu lo sai benissimo, c'è la mia compagna, qua e tutto quanto, quindi sto con lì, entro poco per questo. Già, tutti ci abbiamo i nostri impegni, tutti abbiamo famiglia, la tua è una famiglia come tutte le altre, c'è una nuova compagna e questo sicuramente mi fa piacere, me l'avevi già detto, quindi è una famiglia come tutti, e nella famiglia ci sono tante cose da fare, tante cose da discutere, tante cose da vedere, però ripeto, la radio è un passatempo che abbiamo tutti, se lo usiamo come passatempo, a me mi va bene, diversamente io la tengo spenta, non mi crea più niente, proprio più niente, immagina io sono da marzo qua, non ho manco il telefono che prende, figurati, non mi interessa niente, quando scendo a Sassi ogni tanto faccio qualche chiamata a qualcuno, mando qualche WhatsApp, ma sono proprio fuori dal mondo, e così volevo essere, capito, lontano da questa gente cattiva, c'è cassa di merda, quindi lascia perdere, meglio così, guarda, io non voglio essere cercato, però ripeto, mi fa piacere ogni tanto entrare, salutare le persone, insomma, che stimo, che ci vado d'accordo, ma quando vedi quelle certe cose te ne passa la gana, già lascia perdere. Io sono tranquillo adesso, non c'ho problemi. Adesso te l'ho detto, ho venduto tutto l'allevamento dei cani e ho preso due pappagalli parlanti che sono bellissimi, sono tutti colorati, è una cosa bella da vedere anche. Sono cominciato già a parlare, ci sale sul dito, sulle spalle, in testa, tutte le parti. Li addestrati già bene, già sono belli quelli, già sono belli, no, io animali no, no, io voglio vivere tranquillo e sereno, perché sennò poi sono grandi impegni già e no, non fa, anche se ti ripeto, una casa grandissima, c'è un bel giardino, tutto a posto, ne ho a uffa, sto anche finendo l'altra stanza, quella del Caverio, ho tutto sviluppato con i muratori per intonacare, per smettere e finirla, poi lì non so che cosa farò, se farò una dipendenza esterna, non so, comunque, posto già tanto anche per fare qualcosa del genere, così come hai fatto tu, però no, non è giurana già, ma voglio stare un po', perché abbasso le flu. Tutto qua, no, io non sono sereno, sono serenissimo già, sono rinato, sto bene, ma bene, bene, bene, bene, a dire bene è poco. Sentire certe cose ancora, mamma mia, per carità, lascia perdere, beh. C'è troppa gente ancora cattiva che pensa di disturbare, di fare, di mettere uno contro l'altro ancora, un fischio in tutti i dolci. Quindi a me non me ne ha fatti nulla, io poco entro. Quando entro, se è possibile, rimango, se non è possibile me ne vado. Come sta andando questa radio? Sempre bene? Sì, va bene, sopra il letto, e questo microfono adesso bene va. Gli ho messo lo spray per contatti, nelle lamelle, come ti avevo detto. Sì, sì, va benissimo, il tanner quello, eh. Cappa. Lo sopra, purtroppo è così, ma almeno ti tieni impegnato, dai, ti fa qualche cosa. Certo, per allevare pappagalli ci vuole molta passione, io ce l'ho, la passione, il tempo adesso, grazie a Dio, non ho problemi grossi per andare qua, per andare là, quindi forse anche, poi mi piacciono gli animali, a me mi sono sempre piaciuti, già lo sai. Già, tu sei stato sempre amante degli animali, quindi, ma anche io, per carità, solo che io sai, io c'ho Filippo che mi impegna tantissimo, perché nonostante abbia il giardino, apre la porta, fa tutto, si arrangia da solo, oramai no, non mi crea più problemi, però è sempre un impegno, capite, è sempre un impegno, e poi c'ho altre cose da fare, veramente tante, tante, tante, tante. Vabbè, comunque dai, ognuno c'ha le sue, l'importante è che tutto procederà bene, tutto va bene. Natali, vuoi rientrare? Hai finito di misurare? Sto mangiando, cara. Vi ascolto. Mangia, mangia, cani mangiatori. Questo tu vedi? No. Che io volevo entrare avanti, non si è uscito di radio? Vabbè, vedi, già c'è qualcuno che è in agguato, pronto, pronto se a disturbare. Vabbè, dai. Altro passaggino già, poi ti lascio, dai, che ne vado a fare altre cosette, ok? Sì, qua, non c'è un problema, aspetta. Cappagatto! Già va bene, già va bene. Sento un rumorino di alternata sotto, ma è causato dal microfono? Prova a vedere, adesso? No, adesso no. Perché ce l'ho in mano il microfono. Adesso quando ce l'ho in mano non lo fa, lo metto sopra un'altra base, se lo metto a fianco all'apparecchio ti dà questo problema. E nel momento uno di quei tappetini del mouse, ce l'è presente, quello lì lo isolano e non fa più. Sì, ma hai attaccato? Cappa! Ci aveva soltanto, ma non è la radio, lo smette, ma questo è stato tutto. Bisogna attaccare a poco. Ha detto, non me lo insegnare, insegna un altro, no, va bene già, non c'è problema. Perché ho visto che c'era la portata. Non è che c'è la portata, lui lascia perdere. I segnali più forti e più alti sono il tuo, quello di Antonello e quello di Roberto. Ma hai alzato l'antenna? euro, l'ho piazzata, è già pronta a montare, ho fatto le prove, ci sono 5 punti di segnale rispetto alla mantova, in, sia in ricezione che in trasmissione, vabbè è una 7 ottavi, è 8,50 m, è 2,5 m in più, più alta della, della mantova. Io stavo pensando campagna a farlo partire da per mettere le antenne. No, le antenne direttive me le ho tutte vendute già, mi è rimasta solo la 5 elementi dei 6 metri ed è ancora carbonata in mansarda e basta, tutti i tubi, tutte le cose sono qua. No, no, non piacco niente già. No, la mantova è piazzata bene, è sulla parete della stanza del terreno, è alta circa 6 metri, c'è solo tre tiranti giusto così per sicurezza, perché qua il vento è abbastanza forte, molto forte, e basta, e, boh, e poi c'ho l'antenna delle due, delle uno, basta, non ho montato altro, non monto altro già. Se decido di montare la J-Pole, tolgo la mantova e monto quella, ma non ne metto altre di antenne. Ma questa J-Pole, io non la conosco, è nuova. Sì, antenna nuova, sperimentata da poco, molto molto bella, veramente molto bella, ma 7 ottavi d'onda, tutta in alluminio, c'è già il balum 1-1 installato, ma è una canonata, l'ha vista Roberto, perché quando è arrivata gliel'ho fatta vedere, veramente molto bella. Mi sembra che sono l'unico in Sardegna forse che l'ha ordinata, perché il quello che me l'ha appunto venduta mi ha detto che non ne ha spedito neanche una in Sardegna. Ascolta, dove l'hai presa questa antenna? Di che casa è? È della Smartec. Guarda, digita Smartec CH, Smartec CH, e poi scrivi verticale J-Pole, verticale J-Pole, modello 27 VG. Capa, buonasera a tutti. Ciao Anto, buonasera. Capa, dai, continuate che io vado a mangiare, sono appena ritornato dal lavoro. Ciao, ciao, non so chi ci sia, ma saluto tutti in generale. Ciao Anto, è poca niente, sono io e Gianni, stavamo facendo due chiacchiere, ma fra un po' me ne vado anch'io. L'hai trovata già, Smartec CH finale, poi digiti verticale J pole, pole, J trattino pole, modello 27 VG. Sì, l'ho vista, è bella, è una bella antenna. E indina quanto l'hai pagata, molto. Hai visto già, non ha radiali, c'ha la GPO praticamente fatta un tubo alto, in alluminio, fatta bene, tutta una cena inossidabile, è fatta veramente molto molto bene. Allora, mi è venuta 180 più 20 di spedizione, 200 euro. Ok, e poi a fianco c'ha l'altro tubo, che sono collegati con gli isolatori, tutte con le piastre a cena inossidabile, c'è il balum 1-1, dal canale 1 al canale 80 la regolazione è 0,8 di stazionario, quindi manco 1, 0,8, con strumento veramente buono, ok, l'hanno misurata. Poi 200 euro col trasporto, 200 euro, ma sai quanto è bella montata già, una canonata, non è radiale, il problema è che devi metterla non molto alta perché lavora anche da terra, se leggi le caratteristiche, perché è 8,50 m, è un bel alta. Sì, ho capito, ma non sarà pesante, essendo in alluminio non penso che pesi tanto. Per la mia situazione sarebbe l'ideale per la situazione mia, perché la mia c'ha il palo basso e andrebbe bene lì. Attento Gargamella, CQ Gargamella, mi ascolti, passo, cambio. Ehi, a Lucrezia, buonasera. Ciao, Gianna Nannini, gamba gamba. E all'ombra dell'ultimo sole si era svegliato un pescatore. Si chiamava Gianna Nannini. Radio. Beh, per i me, per i me. Facevo chiacchiere con Gianni e poi me ne vado, perché mangi matto, lo vai, fammi dai. Stavo aspettando. Uscisci l'aria, K, sì già, per te quella va bene. micidiale, no, ecco, la devo piazzare sul terreno dei lavori di recinzione. Appena hanno finito il muretto che sto finendo, ci vanno le staffe a fianco e la piazzo, e poi ti faccio vedere la differenza che c'è di segnale. È favoloso, una buonissima antenna. Ma le piace entrambi, tutti e due? Le prove le ho già fatte io, l'ho messo a fianco, quindi la manta fa sia alta 6 metri, cioè a 3 elementi da 2 metri, 2-4 sci. Quella con un elemento e mezzo solo, a fianco, ok, e già la punta era quasi alta quanto la mantova. Già in ricezione, in trasmissione, le portava via 5 spunti S. Mica, sarà non è poco. È come ci attaccava lineare, avanti sul dose. E cosa va? Tirantata, la viale va tirantata oppure solo il palo? Come la radiale ti ho detto, non l'hai vista come la foto, non l'hai vista come. È un tubo in alluminio alto, 8,50 m, poi ci sono due staffe, staffate allo stesso tubo di alluminio, in acciaio inossidabile con gli isolatori, dove non c'è attaccato anche l'aggancio del PL col balum, ok? E poi c'è l'altro stilo che è alto 2,50 m, 2,30 m, capite? Non ce n'è a radiale, no. Non devi tirantare, non devi tirantare nulla. Allora preso il grosso di tubi, peso 8 kg quanto è la mantova, i tubi sono più o meno uguali a quelli della mantova, però frette molto meno perché c'ha la doppia antenna attaccata, capito? Sì, vabbè, te devo dire il tubo centrale, dai, quello lì ti devo dire se va tirantato o meno, quello lì te devo dire, Claudio, non è radiale, ho sbagliato io. No, frette quello già, frette il necessario che serve per l'antenna, come flette la mantova, come flettono tante altre, però no, non c'è da tirantare proprio niente, assolutamente niente. E allora fa tu perché ti ribigliato. Quella lì è l'unica cosa, perché non dà molto all'occhio, eccetera, eccetera, che con più radiali comincia a rompere le scatole. Io vabbè, ci faccio un pensierino magari, quando se vedo che la frequenza continua a andare magari si prende, però se vedo che lui sì, la cioccolata che c'è, tanto già va bene anche questa, non è che va male. Assolutamente, però quella è fatta molto, molto bene, fatta molto bene. Una grossima più, una 780, è silenziosissima, parte da 25 a 30 in continuo, capito? Io l'ho provata in 10 metri, è una cannonata, è 7 accordatore, con 4,30, 7 accordatore, era una cannonata, veramente. Poi l'ho dovuta togliere perché sto finendo ancora dei lavoretti, ho detto prima che faccio l'anno, poi c'erano i carri mezzo ai piedi, capito? Le staffe erano provvisorie. Dopodiché faccio il lavoro, però l'ho già provata rispetto alla lampada, l'ho provata proprio con Roberto, da 9.30 a 9.35 commutando sia prima una che l'altra. Cappagata, ma cosa ci sono? Incendi qua nei dintorni, sento una puzza di fumo. Già, io non lo vedo, non lo so, fumo non se ne vede da qua. Per carità, io avviago in treno in casa, aspetta che chiudo le finestre, se no mi fumigheggia tutta la casa. L'altro giorno c'era un via Baldella dove c'è la ferrovia, dietro, ho visto dove c'è il capolinea del tram, lì dietro quel chiosco che c'è, quell'edicola, tutto quanto incendiato dove c'è la ferrovia. Addirittura, qua già ancora siamo a posto, speriamo bene, dove ti dico. Che quello risponde quando gli aggrada, non lo vedi che è un po' cuomane. E sarà impegnato. Cuomane con Luca. Si ride di mangiare. Sì. Può mangiare troppo. Sì, cosa? Già so che arrivi via 60 kg già. Quindi da 52 che ne pesavo, già sto ingrassando. E che c'avevo la glicemia a 97, capito? Non mi sale più di tanto a me. Già, riprendo subito che non è tre. Io invece sto lottando perché ce l'ho sempre alta la mattina. Vabbè, sto anche a mangiare, dico la verità, e non me la fotti nulla. C'è il diavolo tentatore che mi tenta. E cosa vuoi che ti richiede? No, io già sto mangiando, grazie a Dio. Prima prima non ce la facevo manco a mangiare, perché mangiavo una cosettina subito un miele, ma non ce la facevo a mangiare. Invece adesso già sto mangiando. Sì, te lo ricordi quando ero all'ospedale? Io già mai visto com'ero magro. Avevo rannicato un bel, avevo tutti i muscoli, tutti i flusci, tutto accucciuppito. E poi mi sono rimesso a posto, già si sono riempito. E anch'io, tutto accucciuppito ero. Ai ai ai, vabbè. L'ospedale a furia di stare a letto senza mangiando poca roba, perché lì non è che ti danno chissà che cosa da mangiare. Due cazzardini per giunta, se non mi piaceva la lasciavo, per cui per forza girano i gatti. Beh, chi c'è poco mai sicuro. E sei cuocomane. Mia, la vedi quel cuocomane di Luca? Che ingrassato è Luca? Ah, sto ingrassando, adesso mi sono pesato, in mutande prima pesavo 77 così, 78, 81, poi 72. Certo, e lo sai perché? Perché hai smesso di fumare. Quanti anni sei adesso che non fumi lui? 13. Quanti? 13. E io ho 10, e io ho 10 anni. Io avevo smesso dopo di te, perché mi aveva fregato, avevo già smesso, poi avevo ricominciato di nuovo, adesso sono 10 anni che non fumo. Tutto tempo è passato, no, che poi fumavi poco, qualcuno te la fumavi spesso, cioè non tu non sei 10 anni per presentato carne mancuna, dentro che ti è capitato così una te l'hai fumata. Sì, io me l'ho fumata, ma in quei 3 anni che tu, praticamente tu hai smesso 3 anni prima di me, se tu sei 13 anni io sono 10, ho smesso 3 anni praticamente dopo di te. Sì, ho fumato qualcuna quando tu avevi già smesso, ne ho fumato qualcuna, ma una ogni tanto, e poi non ne ho più toccato, capito? Non ne ho più toccato mancuna. No, mi ha detto tu, è successo, non so, una cena, forse che c'era anche tua moglie, questo è successo da poco, c'era un paio d'anni fa, che così una te l'hai fumata, perché tutti fumavano, io te l'hai fumata, ma hai detto tu, cazzo, hai memoria. No, ti stai sbagliando, ti stai sbagliando, dai, non è così, non ne ho più toccato io, proprio niente, nulla, sarò 10 anni che non ne fumo di sigarette, prima, allora è successo tutto da un giorno che sono andato a pescare, dicevo me la compro, poi ho preso il pacchetto, sono andato a cedere, poi ho preso, strappato tutte le sigarette e le ho buttate tutte quante, non ne ho più voluto sapere da quel momento. Carità, no, riprendete là che sto cambiando, che tra un po' vado a prendere il tram. Dai, se ci siete ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Luca. Avanti Natalino, e tu fumando stai ancora? Io sì, ti stavo dicendo già, ma per togliere lo schermo di blocco come si fa in questo qui, lo sai tu? In quale? In quale apparecchio? Nel Redmi 9. Per togliere lo schermo di blocco. Io non l'ho mai avuto bloccato, sempre libero è stato lì. No, che quando tu lo accendi c'è quel coso che si deve tirare su. Allora, io quando lo accendo metto il codice mio e poi si apre da solo. E anche io quando tocco l'impronta, perché l'ho messo con l'impronta, io si apre e non c'è il blocco dello schermo. Capito? Ci sarà il lucchetto, secondo me, c'è quel lucchetto che ci clicchi sopra, sicuramente è quello. Vabbè, dai. Tanto mi clicco e si apre, cioè, tocco con l'impronta e si apre, mi asura, già ho risolto. Così non lo possono manco usare se non hanno la mia impronta. Mi hanno dato anche la custodia con questo, quella di dietro, ma davanti protetto sarà. No. Davanti no, io gliel'ho messa. No, a me invece mi hanno dato il contrario, mi hanno dato la parte di davanti, mi hanno messo loro e la custodia me la sono comprata, mi sono comprato quella trasparente. E io ce l'ho nera e trasparente, me l'hanno data loro questa. Vuol dire che mi dovrò far mettere la protezione davanti allo schermo, va? Andiamo. Ma te hai preso il ritmo, Natali? Via. Oggi? E allora? È bello come telefono. No, sono buoni come telefono, sono massicci. Io ho riparato uno da poco, il Redmi, non so, mi ricordo, ho cambiato tutto il display. Io ho il Redmi 9 Pro, e anche Natalia si ha preso quello, l'hanno mangiato fagioli, tutti e due fanno Pro. Vabbè. Io sono fissato con i Samsung, poi c'è un Redmi, mi ha detto un amico che abita in Germania, che è favoloso, 512 giga, ha detto che è meglio del Samsung, è praticamente una bestiolina, super veloce, poi ha delle, fa delle foto allucinanti, tipo se sei un bel lontano ti avvicina un casino, sembra proprio... Non stava spiegando adesso, vabbè, di preciso non lo so, comunque dice che è un ottimo telefono, è costicchia, già è buono quello che c'ho io, figurati quello. Costicchia tipo 1200. Io allora l'avevo pagato quasi 300 euro quando l'ho preso appena uscito. E già, vabbè, dai, a dopo, ciao Natali, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Pedisbella, ciao Gagamella, ciao Akai. Akai. Ciao Luca. Mi sa che hanno voluto usare Lugani. Via. Non è che non ho voglia, ma già mi muovo, dai, mi fa bene muovere. Allora, chicos, Xiaomi Redmi si chiama. E quello lì ce l'ho preso io, ciao tutti. È una cannonata, ma cosa hai preso tu? Il 9 ho preso, Redmi 9. Ma il 9 è normale perché ci sono di tanti modelli. Il 9 Pro, cos'è comparato? Adesso mi hai dato. Aspetta a vedere se prendo la carta. Redmi 9 c'è scritto. Io c'ho il 9 Pro. Quello è quello che c'ha Sara sicuramente. Non prendete mai la versione A perché è troppo base. Sicuramente è come quello, 139 euro l'hai pagato, no? Con lo sconto costava 170 questo. Certo, è una bella bestiolina, Adesso non so se sia il modello con la ricarica rapida. È una bella bestiolina quella. Ogni tanto fa degli aggiornamenti, gli devi far fare. Io c'ho l'8T Pro, ed è una vaga, una cannonata, un anno e mezzo, e come il primo giorno che l'ho comprato funziona. Perché io avevo il Samsung, te lo ricordi, mi si è crepato da solo, non accende più, l'ho portato a Luca e mi ha detto che dovrebbe essere la scheda madre, e quindi è meglio, me l'ho comprato. Già c'ho l'altro Samsung, quello vecchio, del 2016, però quello non lo do perché se dopo rimango senza telefono almeno c'ho quello. Insomma, come quello che c'ha Sara sicuramente, perché Sara c'ha il 9, hai capito? Viaggia di brutto. Fa belle foto. Sono belle foto. Sara, i migliori sono quelli Xiaomi, dimmi, Samsung, poi c'è Oppo, è un'altra marca. Sono i migliori che ci siano in circolazione. E anche Huawei è buono. Anche Huawei già va bene. Mi sono dimenticato. Gli altri già vanno bene, ma sai com'è. Allora, dietro c'ha tre telecamere più il coso dell'impronta e la luce. Al centro le telecamere sono. Sì, tre ne ha. Qui a fianco c'è la luce e sotto le telecamere c'è il coso per l'impronta digitale. Come quello di Sara, Sì, ma ho visto che è un bel veloce, mi c'ha un bel di memoria questo. Cazzo, bombe sono. Sono bombe come telefoni, c'è una batteria allucinante, ciammi. Stai scherzando, però ogni tanto devi far fare gli aggiornamenti, ogni tanto. Ogni tanto a me mi arrivano, capito? Mi danno cose nuove. Altre volte fa tutto fa gli aggiornamenti parziali e poi fa tutto l'aggiornamento del sistema. Quando fa quello migliora ancora lui, capito? Sì, ne aveva 20 stamattina da fare, gli aggiornamenti glieli ho fatti fare. No, un conto sono gli aggiornamenti del coso, un conto l'aggiornamento del sistema, che è un'altra cosa. qualcosa che ogni tanto loro te lo mandano. Quelli, chi c'è una cosa ancora, Natalie? Migliora ancora, lui più aggiornato è più migliora nelle prestazioni, capito? Se credo, anda bene Meda. Ho visto che è veloce pure come cosa, ha due schede, me l'hanno dato di meno a me, perché gli ho dato la scheda delle poste, quella scheda che non caricavo più delle poste italiane, mi avevano regalato, no? E sono passato a Windy, è per quello che me l'hanno lasciato di meno a me, capito? Se no costava 170 euro, non ti credi che c'era poco? Capa, secondo me funziona anche di più. Però dico la verità, però è che quando lo usi te ne accorgerai che è una trattoria. È una trattoria con fa voce pompa. Sì, infatti me l'hai detto di caricarlo per 8 ore, adesso ne ho staccato il caricabatterie e via. Anche il caricabatterie veloce io, quello del Samsung, però non so se attaccarlo quello. La ricarica rapida, perché mi pare che quello non ce l'ha. Ma no, io l'ho attaccato al mio, a quello di Sara e va lo stesso. Tipo ricarica rapida e va. Io non attacco il lago Rusui originale, sai che mi si credia buruvissimo. Io lo stesso c'ho carica rapida e in mezz'ora carica, ma è quello che c'era originale, quello lì lo carica in mezz'ora e mi dura 2 giorni carico. Allora mi sa che in quella versione lì mi pare che lo puoi comprare a parte, capito? Perché io ho il mio, sono attaccato a quello di Sara, carica tranquillamente. Bianco è questo qui, come quello del Samsung, solo che c'ha l'attacco sopra invece che al fianco, così è già il tuo. Sì, è praticamente carica di tutto, cioè carica un riflesso, mezz'ora è carico. Sì, allora vuol dire che c'ha la ricarica rapida. Cosa vuoi ti dica? Io li metto l'originale, lo sai che da voi mi si faccia, no? Non da bene Meda. Però io l'ho provato, il mio che c'ha la ricarica rapida e va bene lo stesso, te lo devo dire. Perché mi pare che si può acquistare come accessorio a parte, che se il caricabatterie, così, se non mi ricordo male. Se io metto il mio a quello di Sara, è come se parte, te lo segna pure, ricarica rapida. No, già, non te lo segni a te. Che cosa, tu? Quando tu attacchi, c'è quel fondo, dove entrano le vitamine lì, e ti scrive ricarica rapida, ma lo puoi caricare anche normale, lo puoi caricare. Capito, se non ce l'hai quel caricabatterie, si può caricare anche normale. Non so, questo dura sempre 2 giorni, lo tratto io, lo uso un bel io. Lo uso a gogo e dura 2 giorni la carica. E che il secondo giorno, la notte quando lo metto a caricare c'ha 35 di carica, 35%. Capa, già pompano già. Bici, logicamente la tecnologia è andata avanti, soprattutto questi sono la seconda azienda al mondo, quelli che proprio non mi piacciono sono una cagata, su chi c'è della Apple, la grande mela, chi ci sono proprio, a me mi piacciono i kifu come telefono, delicati, ci spaccano, costano un sacco di soldi e non i vari ne annuda, non so se ce l'avete mai avuto voi. Sì. Guarda, ce ne ha avuto gente che conosco, se l'ha cambiato subito. Che cosa anche? Apple, Yos, la grande mela. Io di questo sono contento. C'ha 2 schede, gli ho messo la scheda di memoria che avevo nel Samsung e va tutto. Figurati. Quindi questo mi piace di più del Samsung. Vai. qui c'è bomba a voci, bomba, fidati tu. È uno scambio latte che è una cosa impressionante. Solo che mi segna una scheda solo, cioè lui ti dice che c'è la scheda, però quando vai a telefonare ne segna una solo. Forse perché non è attiva ancora quella della Wind. Non ce la devi mettere, no Natali, se non è attiva. E perché non ce la devo mettere? Se... quando si attiva, cosa vuol dire? Perché deve fare il passaggio dalle poste a Wind, capito? Capa! Passa un'altra scheda, passa. Ma dovrebbe andare, c'è un numero provvisorio, c'è in quella là. Dovrebbe andare un po'. Ah, sicuramente non lo so, bisogna forse devi andare a impostarla e metterle tutte e due. Io non ne ho mai usato e a due, la verità. Ma, papà, là, io vi saluto che vado a portare giù il cane, dai. Andare, buona serata a tutti, ciao Lattarino, ciao Antonio, Luca, Claudio se lo ascolta e tutti gli eventuali ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao già, ci sentiamo. Guarda che chi c'è un signor telefono, eh. Lo so che è un signor telefono. Adesso vedo cosa c'è scritto su Windy 3. Non lo so, forse devi impostare tutte e due quelle lì. Ma... io non ho mai trattato due schede, quindi non lo so neanche qua. Ma io ce l'ho messa. E se non ne raggavo e la pongo nell'altro telefono, la Windy, tanto non ha tratto mai. Tratto sempre chiccia. Attiva. Informazioni simile. Cappa, sta bene, secondo me già c'è, ma io non ne so perché non ne ho mai usato, la verità, ce l'ho anche io, ma una puttinuta di avere due sim. Perché quando schiacci un contatto, per esempio, ti dovrebbe uscire scheda 1 e scheda 2, per sapere con quale devi telefonare. Invece non me lo dice, mi vedi, chiama, ti dice solo. Ma me sa bene? Sì, se me la riconosce pure, me la vede. Allora c'è qualche postazione che tu non sai. Vabbè, va. E ci vediamo, fammi la doccia, va. Ci sentiamo. Ok, ciao Anto, alle prossime, dai. Ehi, mi vuoi, mi vuoi.